Effetto Mondo. There he is, with his hat, Cuomo prime time. Say hello to Kia. There, I saw it. It's hard to miss. You're looking... Let's get after it. Let's get after it. I love that saying. You're looking fit. Eccoci qua. Buongiorno Giulia. Ciao Giulia Crivelli. Buongiorno. Cos'è che la voce che abbiamo sentito? Quella di? Abbiamo sentito i due fratelli Cuomo, Andrew Cuomo, che dice "There he is", perché si è videocollegato ieri durante la conferenza stampa giornaliera con il fratello, che è in isolamento perché ha il coronavirus. Hanno scherzato e poi però insomma il fratello ha a sua volta spiegato in che cosa consiste questa quarantena, le cure che sta ricevendo, la telemedicina perché non è in condizioni gravi al punto da essere ricoverato, e naturalmente hanno entrambi ribadito l'importanza del social distancing. Proprio adesso è arrivato tra l'altro un alert della CNN che potrebbe proprio esserci un obbligo per tutti gli americani, per i quali in molti stati è ancora difficile far capire l'importanza di questo social distancing, di addirittura anche Fauci l'ha ripetuto ieri, non so quante volte io l'ho sentito dire, 6 feet, che vuol dire 2 metri, non 1 metro come da noi. Però siccome è difficile, siccome in tanti stati si continua per esempio a celebrare messa, verrà probabilmente imposto questo dovere di indossare le mascherine, che comunque proteggono noi stessi ma ci proteggono anche dagli altri. Quindi, sarebbe interessante capire se loro le avranno a disposizione per la popolazione e naturalmente per gli operatori che ne hanno strabisogno. Questo è un altro tema. Magari nei prossimi giorni faremo un approfondimento anche sull'America da questo punto di vista, Giulia. Che altre notizie? Sempre gli Stati Uniti, credo, in primo piano, perché comunque lì l'emergenza, l'abbiamo detto tante volte, ma si sta confermando che è un passo molto veloce. Sì, nel New York Times, che ha sempre 2 edizioni, la International Edition ha una foto in prima pagina di un bellissimo in realtà locale, una vecchia barberia di San Paolo in Brasile, completamente deserta, c'è solo il barbiere con l'aria sconsolata che consulta il suo telefono, perché a San Paolo, come in molte altre grandi città brasiliane e in alcuni stati brasiliani, c'è un totale lockdown, che però non è imposto in realtà dal governo centrale, perché nell'articolo richiamato in prima pagina e poi a pagina 4 di nuovo si citano le parole di Jair Bolsonaro, che nonostante poi il suo governo abbia passato una misura per dare un primo aiuto a tutte le persone che sono rimaste senza lavoro, nonostante anche lì il numero di morti e di contagi cresca, continua a dire che non è un problema, però la realtà diciamo lo contraddice, tanto che anche nei sondaggi sta crollando, mentre l'edizione americana del New York Times ha questa mappa impressionante che collega con dei puntini rossi le zone rosse dal punto di vista sanitario, ma anche dell'emergenza economica, perché abbiamo visto insomma tutti i giornali hanno titolato su questo boom di richieste di disoccupazione. Financial Times addirittura fa vedere proprio questo grafico che fa paura, perché dal 1967 a oggi ci sono dei picchi, c'è stata una settimana per esempio nel 1980 in cui c'era stata una richiesta di 695.000 sussidi di disoccupazione, altro picco simile nel 2008 dopo la crisi finanziaria, e c'è questa impennata della curva che sembra quasi finta, tanto è brusca, dei 6,6 milioni che abbiamo detto ieri. Quindi questo è. Poi ci sono anche quelle che Trump ha voluto giustamente anche controbilanciare, dare come buone notizie, cioè l'andamento del petrolio, che dovrebbe essere insomma un primo segnale che la tregua tra Arabia Saudita e la Russia di Putin sulla questione del petrolio regge, però naturalmente è una piccola buona notizia in uno scenario che per gli Stati Uniti in questo momento è veramente pesantissimo, tanto che da più parti si chiede per esempio questa stagione di dividendi, che molte aziende non stacchino i dividendi, non solo perché si possono mettere a riserva per cercare di prepararsi agli effetti di medio termine di questi lockdown, ma anche per non dare un segnale appunto alle 10 milioni di persone in questo momento, sommando quelli di settimana scorsa negli Stati Uniti che hanno chiesto il sussidio di disoccupazione, e in generale a tutti quelli che stanno vivendo questo periodo senza cuscinetti economici o finanziari. Siamo in attesa, abbiamo detto poco fa, di segnali, per esempio dal nostro mondo del calcio, il taglio dei stipendi dei calciatori, che arrivi un segnale rapido, perché in questo momento c'è bisogno che, insomma, chi più ha in qualche modo si metta un po' a disposizione. Venendo all'Europa, o se vuoi anche alla Cina, se hai notizie, vedo che mi segnali comunque qualcosa dalla Cina, perché c'è qualche piccolo timore per possibili focolai che stiano in qualche modo ripartendo anche lì, eh? Sì, e tra l'altro il South China Morning Post, che è questo quotidiano anche abbastanza indipendente rispetto al China Daily di Hong Kong, purtroppo segnala il peggioramento della situazione a Hong Kong, che vuoi per i viaggi, per i confini che sono stati chiusi troppo tardi, e comunque anche lì i contagi aumentano, quindi questa città, che lo ricordiamo nel 1987 è tornata da protettorato britannico, è tornata sotto il controllo di Pechino, che già viene da un anno di proteste, di negozi chiusi perché avevano paura delle proteste, dei disordini. Adesso i negozi sono di nuovo chiusi, saranno chiusi anche tutti i bar e i ristoranti per 2 settimane, quindi la città è in ginocchio e naturalmente sì, forse in questo momento tutti gli abitanti di Hong Kong, che sembrano auspicare condizioni, insomma, leggi diverse da quelle che valgono per il resto della Cina, forse in questo momento auspicano che invece tutti gli aiuti che il governo cinese ha stanziato per dar fiato all'economia messa in ginocchio nella regione del Wuhan, dell'Hubei, vengano estesi anche a Hong Kong, che tra l'altro è, oltre a essere appunto una gigantesca città, è anche una borsa molto importante, quindi c'è un tema anche lì finanziario. Che succede invece in Gran Bretagna, Giulia? Mi segnali che c'è un po' di agitazione. Guarda, l'Independent ha una prima pagina divisa in due. La prima foto, la parte superiore, è Boris Johnson nella conferenza stampa del 19 marzo, quando non era ancora in autoquarantena, che diceva faremo 250.000 test al giorno. E poi sotto, e qui è il gioco di parole, failing the test, che vuol dire essere bocciati oltre che non passare il test, perché ieri invece Matt Hancock ha dovuto dire adesso abbiamo un obiettivo di 100.000 test al giorno, ma per la fine di questo mese. Quindi è passato un mese e mezzo dalle roboanti dichiarazioni di Boris Johnson e i test non ci sono, per i problemi che stiamo un po' sperimentando tutti, perché innanzitutto bisogna capire se si vuole testare la positività al virus o se si vogliono cercare gli anticorpi, bisogna produrre i kit per i test e i laboratori che li possono eseguire in fretta, quindi così, insomma, si dimostra ancora una volta che in questa situazione non si può fingere. Se si fanno degli annunci così e poi si viene smentiti dalla realtà, come è successo anche a Donald Trump con la promessa di farli drive-thru nei Walmart e non è stato così, e poi alla fine anche i giornali come il Daily Telegraph e il Daily Mail, che nelle settimane scorse erano stati molto vicini alle politiche di Boris Johnson, cominciano a criticarlo duramente, perché appunto in emergenza non si possono fare questi errori. Abbiamo poco meno di un minuto. In Germania, Giulia, come stanno vivendo in queste ore la situazione? Ma sembra che i giornali un po' si diano un po' la carica ai tedeschi, c'è per esempio la Welt che dice i tedeschi stanno reagendo bene, non ci sono notizie di episodi di assalti ai supermercati o altre cose simili, o di multe esagerate o di reazioni scomposte della popolazione al tentativo delle forze dell'ordine di far rispettare i divieti. Naturalmente tutti zu Hause a casa per Pasqua. E solo una piccola cosa sul calcio: la Frankfurt Allgemeine Zeitung ha un'intervista a Rummenigge, che naturalmente gli interisti qui ricordano, certo, che attualmente è al Bayern, propone comunque di far finire il campionato tedesco della Bundesliga, magari anche a settembre, di far iniziare quello dopo a dicembre, perché dice okay, non si può lasciare un campionato in una sospeso. Proposta originale, quantomeno. Grazie a te, Giulia Crivelli, ci risentiamo la settimana prossima. È tutto per Effetto Giorno per questa settimana, oggi con Peter Bescapè in regia, Valentina Ternullo in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizio.